الضحى، la luce del mattino. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. والضحى. Per la luce del mattino. والليل إذا سجى. Per la notte quando si addensa. ما ودعك ربك وما قلى. Il tuo Signore non ti ha abbandonato e non ti disprezza. E per te l'altra vita sarà migliore della precedente. Il tuo Signore ti darà in abbondanza e ne sarai soddisfatto. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Non ti ha trovato orfano e ti ha dato rifugio? وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Non ti ha trovato smarrito e ti ha dato la guida? وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Non ti ha trovato povero e ti ha arricchito? Dunque, non opprimere l'orfano. Non respingere il mendicante. E proclama la grazia del tuo Signore.